Ehi sbarbe, sono le 7:30 minuti primi. Qualche problema? If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire. Seconda parte di Pane, Burro, Rock and Roll con l'Ariele Spadino, Fricantoni, la redazione. Riprendiamo con un po' di strombazzata. Abbiamo la patentata 670 che oggi me la operano. Stai precisa, Luna. Un saluto a Tommy. Richiedo urgentemente strombazzata per compito di matematica, interrogazione di latino, giornata pesantuccia. Stai preciso, Tommy. A proposito di reparto scolastico, ho anche una mail. Caro Ariele, ti chiedo una bella strombazzata per alcuni dei miei studenti del professionale Marconi di Prato, che oggi pomeriggio tentano di recuperare il debito di fisica e ne hanno anche un gran bisogno, tra l'altro, segnala. Qualcuno dovrebbe ascoltarmi, visto che ci sei, aggiungetene una per Steve, che oggi mi compie 19 anni ed è ancora in terza media. In terza media, spero, se no va a finire male. Firmato Carla, la professoressa, che dice: ho sentito che ci sono altre professoresse. Sì, esatto, ne approfitto. Io, grazie alla redazione, ne ho segnate almeno un paio di professoresse, che tra l'altro erano professoresse di inglese. Ragazze, ragazze nel senso professoresse, se siete all'ascolto, uno di questi giorni bisogna organizzare un compitino con i vostri ragazzini, che gli facciamo l'interrogazione in diretta, vi va? A me andrebbe molto. Così, questa versione Ariele maestrina dalla penna rossa un po' mi affascina. E sta diventando bucaiolo. No, è solo una cosa così. Era una citazione letteraria. Blue Oyster Cult, Burning for You. Restate con noi, può accadere di tutto. finalmente, augurando un magnifico, uno straordinario Wednesday 16 gennaio. Ringraziamo la redazione che lavora lacrimente una dozzina di secondi al giorno per prepararci i compleanni del giorno. Esatto, e tenendo presente il fatto che il 16 è il giorno preferito di Roberto Fricantoni. Davvero? Non naturalmente lo sapevo. È il suo numero preferito. È il mio numero preferito, essendo il mio giorno di nascita, ma essendo anche nella smorfia napoletana il numero corrispondente al culo. Si poteva dire culo in radio, l'ho detta, mi dispiace. Direi di sì. Compleanni allora, del giorno 1945, Kabir Bedi, l'attore, l'affascinante attore che interpretò Sandokan. Mi può ripetere la sigla, per favore? Di cosa? Di Sandokan. Sandokan. Con la sua scimitarra. Grande. E la tigre di Mompracen. E la pirla di Labo, la perla. La perla. Scusi, sono scivolato. Il lapsus di mattina. 1948, un altro compleante, John Carpenter. Giovanni Carpentiere. No, John Carpenter, si chiama così, regista, sceneggiatore, produttore statunitense. Si ricorderà sicuramente 1997, Fuga da New York. Ma naturalmente, nella mia cineteca, sa che io sono un cinefilo. Sì, è un cinofilo. È un cinofilo. Ancora, un cinefilo. La cosa, The Thing, ah, quanto mi ha spaventato quel film. Brrr, sì. Se ci ripenso, brrr, che orrore. Ricordiamo anche Christine, la macchina infernale. Sì, bellissima questa macchina. Che se la ride e ammazza allegramente nella prateria chiunque gli si avvicini. Per esempio, se si avvicinasse adesso un Zacco Rizzi, noi... che gli attraversa la strada, Christine tirerebbe dritto. Una roba così. Bene, chiudiamo con un compleanno che sicuramente lei festeggerà con gioia. 1968, nasceva Demi Heche, attrice porno, tutte statunitense. Ma infatti anche di Danny, io devo dire di Danny, sì, la chiamo certo, sì, amichevolmente Danny. Danny, l'ho anche conosciuta, ho alcuni suoi autografi autentici, peraltro ho uno scaffale della sua migliore produzione, forse nella sua porno libreria, ricordo. Ma nella bene. Mia porno di lei ricordo soprattutto le calde liceali del convento, sì, è sicuro, esperienze sessuali paranormali del quinto tipo. Tenterei di uscire da questo cul-de-sac con l'ultimo compleanno, se e me lo concede. Tenterei di uscire da questo cul-de-sac aia. Sesso. Va bene. 1974, auguri a Kate Moss. Modella e stilista britannica. Quella drogata. Sì, quella maledetta. Quella rovinata. Sozzona! No, vabbè. Gran pezzo. Era un gran pezzo che non la nominavamo. E me che c'è? Ok! Tokyo! South America! Australia! France! Germany! UK! Africa! City, don't forget the Motor City. Dancing in the Street se la cantavano Mick Jagger e David Bowie, e con questa immagine di tutti che scendono sulle strade e se la ballano, di questo mondo fatto solo di rocker, tutti uniti, tutti appassionati a questo meraviglioso genere musicale. Fosse così, ma non è così. Aprite gli occhi, amici del rock and roll. Non è facile vivere da rocker in questa società. E noi di Pane, Burro e Rock and Roll lo sappiamo, lo abbiamo spesso e volentieri sentito con le vostre testimonianze, perché si sappia, per Pane, Burro e Rock and Roll la famiglia è un valore importante. Non ve l'avevo mai ricordato? Beh, ve lo ricordo oggi. Perché dico tutto questo? Perché finalmente torniamo a occuparci del problema "io sono rock e chi ho intorno no", che stavamo un po' perdendo di vista ultimamente. Invece con piacere lo riprendo grazie a un amico che ci chiama da Fucecchio, 30 anni domani, Balia, benvenuto! Grazie Ariele, buongiorno! Intanto domani il compleanno? Sì, purtroppo. Ma come purtroppo? Vabbè, via, diciamo mentalmente mi sento sempre un pischello di 17 anni. Quello anch'io, ma è ovvio. Sì. Poi 30 anni, insomma, siamo ancora giovani, via, mi ci metto in mezzo anch'io. Ovviamente. Affrontiamo la questione di Balia. Lui è un rocker, vero? Sarà un metallaro sicuramente. Sì. Ecco, li becco dalla voce i metallari. Cresciuto a Pine Iron Maiden, può essere. Sì, praticamente. Tramite il fratello maggiore, che praticamente mi ha svezzato a 14 anni. Capita che il fratello maggiore svezzi. Il problema negli scorsi, è tanto, dicevo, che non affrontavamo questi problemi. Avevamo sentito di fidanzati e fidanzate che non avevano i gusti musicali uguali. Il nostro Balia ha il problema con i genitori, papà e mamma. Più papà, dicevi? Sì, perché praticamente lavoro con lui, no? Aia. E quindi appena entrato a lavoro i primi tempi sentivo solo musica liscio, perché lui ascoltava solo quella. Quindi hai anche una discreta cultura nel liscio? Purtroppo sì, ora l'ho iniziato a perdere, però all'inizio sapevo addirittura le canzoni a memoria e questo mi preoccupava parecchio, sai? Ovviamente immagino che la passione di tuo padre sia legata anche alla balera. Sì, infatti, al ballo. A ballare di qui di là, quindi capito. Ma senti, ha anche dei CD delle orchestre così. Guarda, le so tutte anche io i nomi, quindi proprio. Vuoi citarci qualche hit single che va per la maggiore quando lavori con tuo padre? Ma ora ultimamente non lo so più di tanto, ti posso dire i vari gruppi che mi ricordo, tipo? Però. Sì. Vabbè, c'è tipo Tonia su disco che dice anche una bella gnocchettina, insomma. Poi che ti posso dire? Ora non me ne viene in mente bene altri, perché guarda proprio. Perché di solito ci sono i titoli un po' strani delle canzoni del liscio. Alcune fanno veramente ridere, però vabbè. L'amore c'è sempre. Prendiamola così, no? Dice quello. Ecco, prendiamola così. Tra l'altro stavo pensando che solitamente questo problema saltava fuori perché erano appassionati di musica da discoteca, e lì secondo me è più difficile, perché ti spiego, pensavamo con la redazione che essendo appassionato di liscio comunque è appassionato anche c'è l'orchestra di liscio, no? Quindi sì, c'è sì. La tradizione della musica dal vivo del liscio. Sì, infatti, poi musica uno che suonata. Ascolta liscio generalmente ascolta anche musica un po' più vecchia degli anni 50-60, di rock and roll. Quindi un pochino gli piglia, però non riesce ancora a ingranare sul rock moderno, diciamo. Io voglio il metal, sì, esatto. Almeno il rock moderno. Per diciamo. Fortuna, esatto. Vedo che la stai prendendo con filosofia. Come stai affrontando la situazione? Allora, si cerca di fare a settimane alterne, cioè di sentire la sua radio preferita e sentire Rock FM. Adesso voglio sapere la sua radio preferita qual è? Ovviamente è Radio Z, no? Aia, già sentita. La classica le classiche. Maledetti, quelli che hanno il pullman che vanno in giro. Lo voglio anch'io, che invidia. E praticamente si fa a settimane alterne, però lui dopo due o tre giorni che si lavora con Rock FM dice: aia. Questa musica basta, a me mi dà noia mentre lavoro. Gli mette il nervoso, c'ha ragione. Che posso fare? Se non gli piace, c'ha ragione. Comunque, secondo me l'idea buona è affrontarla sul rock and roll anni 50, l'hai detta bene. Cioè, gli piazzi un Elvis, roba un po' ballabile. No, ripeto, hai detto bene, non esageriamo, no metallo, sennò questo mi va fuori di testa. Però alla fine c'ha sempre 65 anni, però posso cercare piano piano di dargli una fedata verso il rock. Ecco, devi, con calma, perché lavorare con Rock FM e con Radio Z sono due cose diverse. C'è una bella differenza. Immagino, ipotizzo. Va bene, caro Balia, massima solidarietà da parte di Pane Burro Rock and Roll a te e a tutti coloro che vivono un conflitto musicale. Sempre musica potente, mi raccomando a tutti. Buona giornata, a presto, e salutami il papà e la mamma. Ciao. Grande Ari. Ebbene, tornando... Non sia triste, è una trasmissione allegra, Pane Burro. Tornando a noi, tornando ai nostri miti, sì, alla nostra storia, io fremo di dolore e di indignazione perché qui si attacca un mito della storia nazionale. Aia, la redazione effettivamente ci segnala la possibilità di un pensierino a una notizia datata 16 di gennaio. E noi, quando c'è la possibilità di fare un pensierino, lo facciamo sempre volentieri. Lo facciamo, ma stavolta non so, non è il caso di censurare. No, noi non censuriamo nulla. Do la notizia. La redazione sanguina. Nella persona di Isacco Rizzi ci teneva a ricordare che il 16 gennaio del 1860 un certo Giuseppe Garibaldi, detto Beppe, sposa Giuseppina Raimondi, detta Peppa. per fortuna che ha detto se lo Peppa, la sposa a Fino Mornasco. Succede questo. Fino Mornasco, mi interessa, dov'è Fino Mornasco? Fino Mornasco. Fino Mornasco, guarda che in dobbiamo fare delle ricerche. Allora, sistemiamo questo appunto. Va bene. Fino Mornasco. La cosa buffa però è che questo matrimonio dura un'ora, perché un'ora successiva alla cerimonia Giuseppe Garibaldi scopre che la moglie Giuseppina aspettava il figlio da un altro uomo, chiede l'annullamento del matrimonio non consumato che otterrà solo dopo 20 anni. Dunque Beppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi, l'uomo dei mille, viene ingannato da Giuseppina Raimondi, che dopo un'ora gli donna. Dice guarda, io ce l'avevo già. Ma sono una ragazza sbadata e ho dimenticato di dirtelo dirti, almeno un'ora fa che sono incinta di un altro uomo. Cioè, accade anche ai più grandi. Accade a tutti, può accadere anche al grande Garibaldi. Un saluto a Beppe. Solidarietà al grande Beppe. Viva Garibaldi, viva l'Italia. fax. Pronto il signor fax? Parliamo con la famiglia fax. Buongiorno, sono Ariel, scusi se la disturbo, da Milano, Rock FM. Posso chiederle se ascolta la radio? No, in questo momento non la sto ascoltando. Ma solitamente l'ascolta? Sì, certo. Cosa ascolta di bello? Studio Delta, a dir la verità. Ah, Studio Delta. Noi sì. Le presento anche Roberto Fricantoni, conduce Degli Schianto, il programma piacere, con me. Piacere, grazie per aver risposto e per concederci un po' del suo tempo. Possiamo convincerla di ascoltare Rock FM invece? Guardi, io in questo momento sto lavorando, un po' da fare, mi dispiace essere scortese, però... No, le diciamo solo le frequenze, possiamo dirle solo un numero? Certo. 107,7. Va bene. Alle 7 del mattino vedrà che la molla Radio Delta poi. Ascolta Rock FM. Buon lavoro. Buon lavoro. Grazie, pane, burro e rock and roll, arrivederci. Arrivederci. Pastorius, McCartney, Jack Bruce. Beh, loro sono veri maestri del basso. Amici, fidatevi di noi, non diventerete mai come loro. O meglio, non lo diventerete mai se continuerete ad ostinarvi a voler suonare il basso con le dita. 1, 2, 3, 4. Pane, burro e rock and roll vi dà l'occasione di diventare bassisti rock con la bocca. Iscriviti al provino gratuito inviando un sms al 335-100-7777 con la scritta rock con la bocca. Sì! Non perdere l'occasione di riscrivere la storia del rock con la bocca.